avanti giocare 10. Chi è questo bip avanti? Chi è avanti? Cade, la sedia già dal tuo cognato. Me la raccontate chi? Stati regalato a bicicletta una bicicletta. Stati regalato a bicicletta una bicicletta elettrica. L'ha regalato mi pare, così ha giù compreso. Dice che fa la campagna e tutto, con questa bicicletta. Si l'ha comparata, se l'ha fatta ordinare, se l'ha comprata, 1000 euro. Ma regalata. Sì, regalata, una bicicletta di regala. Tanto di ballare, lo vuoi abbellare, ma tanto abbellare sempre con la bicicletta. Ma il bimbo deve avere un casco e l'assicurazione deve fare, qua non ha compreso. Purtroppo le leggi hanno cambiato, per cui... la mia si deve vedere il magazzino. Quella legge ormai è fatta male di comprarla, non arrivava la bella a comprarla dopo. Che poi sono morto che... Non esistevano neanche qua in Sardegna di quelle motoriste. Ci sono già. E spera niente, mi c'è a Città Mercato, di pronto al rifornitore. Ci sono anche lì, anche a Sassari dei Fuochi, a me ne sono una strada. Sì, ma non è giù a vendere, sì, ma non a Cotari. Vuol dire che te la rappi la buoni. A me, e ora non è entrato più, non manca a provarla dietro, no. Per il magazzino, ogni tanto faro, il cavalletto, attacco la mattina e la posso camminare così. E sono tranquillo con Martenzi, mi piace avere la villa, Manuele. Già lo so, ma io non mi avrei preso il certo. Avrei preso quelle macchinette chiuse, quelle come c'era la mamma di Graziano, avevo pigliato una di Rissi ed ero più contento. Ci faccio ancora la partenza, la lasceranno, ma lui è una bella fare una macchinetta. Io invece se gli va a fare la partenza, magari al prossimo anno, portarci pure. Vedi un altro giorno, bella, 6.800 euro, ma non prendi sì, quanto è bella però, con due posti, a due posti. Già l'ho vista, sì, c'ha la radio e tutto quanto, già l'ho vista, il manubrio come la macchina, già la giudica, il cazzo, ma 6.000-7.000 euro sono belle. È un mezzo che puoi andare anche quando piove, sa anche sulle tempiglie, capito? Poi se la vuoi anche targare, capito? Ti danno anche cose, se la vuoi targare la targa, se lo va a camminare così. Sì, ma è bella dai, avanti di farsene comparare, no? Come se chiesi molto che fai tu. Prima non vi voleva l'assicurazione. Avevo l'assicurazione pure che si è morto. Vedrai che adesso le fanno anche in quelle macchinette lì, per forza, perché se le fanno male monopattini e le fanno anche lì, per forza le fanno fare anche lì. Prima le fanno comprare, quando le hanno belle vendute poi mettono l'assicurazione nel pollo e canto bene. A me mi interessa fra una strada e poi basta, poi. E che se ne fa? Allora, un giovane magari diversa la questione, però uno che vale il 100% non per bisogno, credo, a quanto so non paga niente, se gli vale il tuo 100%. Se non è valido, è chiaro che se tu prendi una gente devi ricaricarla e devi assicurarla e bollarla. È così. E che colore l'ha presa questa bicicletta? Nera? Non lo so, non l'ho vista, me l'ha detto, l'ho trovata la Conrada, per essere in Pisa, e me l'ha raccontata, capito? Hai fatto bene, allora con capire un poco. La bicicletta te l'ho rubato, Giovanni. Ah? Ho detto, ti hanno rubato la bicicletta. Oh, è un amico che si ha comprato la bicicletta a elettrica. Ah, ok. Ma bene, sto uscendo, sì. Io ce l'avevo. Cazzo, ma me la sono venduta a cosa? Tornato. Tornato. Ma da lui l'avevo venduta, cazzo. Grazie quasi per la giornata, ma non mi fate la piazza, la farreria a pedalà, allora ci ho venduta. Quale? Quella che avevi prima? Ehi, questa lì era bella, c'era stato di tutto, certo, la giovedì da Edo, a cosa, ha tornato. Però queste bici sono belle, la verità, però... quando si rompe la batteria sono colpi. Io quando c'avevo la mia famosa avevo speso 300 euro di batteria. Infatti sa che con l'audio le batterie valgono poco, quando si consumano molto in fretta, mentre quella a cosa quelli altri durano di più, dai, quella piombo durano di più, ma quella odio durano poco, capito? Perché bisogna stare attenti a queste cose. Ho capito, vabbè. Comunque. Queste batterie, guarda, se le celle sono Samsung, ti durano un sacco. Allora, quella che ho venduto io c'avevo la batteria casa piombo, per cui tranquilla, e poi dura anche 5-6 anni. E poi la batteria costa me, direi che costa più la batteria che la bicicletta. Perché già, ma tu l'avevi venduta pure, no? Sì, l'ho venduta, ma com'è? E io l'avevo data tornato, per la figlia l'avevo presa. E per cui... era genere, c'era che il portabagaglio c'era dietro, quella che c'avevo io. No, era benina, Però io non ci arrivavo a pedalare perché era molto alto il sedile, non lo abbassava di più perché c'era la batteria e non lo abbassava. Ma allora non sta per quello, se no me l'avrei lasciato. Ma lui è... quella lì già andava bene, dai. Già andava bene con la bicicletta e camminava pure questa bicicletta. Cazzo, il mare è caggiato me carrette l'ha caggiato. Oh, carrette la volevo provare a parte semine e caggiato. O poi si faccia un gondo, si faccia precisiamo quello che fa la terra. io per carità. Il magazzino, così mi piace averla, va. E adesso la devi assicurare, fatela mettere la targa. Ah, ma devi assicurare la Bruisa, devi assicurare. Per carità, tutta patina. E così faranno anche quelle macchinette che stanno uscendo adesso. Te ne sono lasciato in sassi si macchette coperte, cazzo, per carità. Già sono belle. Sono belle, come quelle di Graziano la morale. Quella è bella la. Però hai bruttito, cazzo, hai pagato più di 1.200 euro. Cazzo, invece costava 700 euro. È un bel di denaro, queste macchinette. Un bel di denaro. Vedi sicuro, quelle che stanno usando sembrano macchine, proprio macchine sembrano. Cazzo di 7.000, 8.000, ma vai. Cappiati, cappiati si rabbia, io non li sarei abbigliato, ma che si... sono in provincia di Rino Farappartenza, la Lucuferi. E che se ne frega? Ma non è perso nemmeno, non mi interessa più. A piedi cammino. Esatto. A piedi, ti controlla e cammino ma stessi. Beh, tanto se non vado più da nessuna parte, lo sapevo la pena fare. Non mi vado la pena spendere solo una volta. Ma... Purtroppo è così, io... Cazzo, quando mi muovo in capo una cosa che mi piace, allora, mi rapido, cazzo. Sono fatto così, io. No. Non è per me, capito? Non è per me, per cui... Meglio di andare che la usi le altre, io non li tratto. Pensa. Dai, magazzini, sento pagato, non mi domande di là, e per cui... Dai, magazzini, non mi piace averla, va. Aspetta un attimo, Giovanni. Luca. Via, sono qua. Ho detto prima, ma sto uscendo bene. Sì, già va bene. E io come sono uscendo? La fondoscala c'è Giovanni. Tutta la fondoscala. Si guarda, stai usando la Grimaster, l'antenna grande. La Grimaster sto usando io. Con 5.500 del 5.500. Che 5.500. Benissimo Giovanni, tutta a fondo scala, va benissimo, guardate, buona, ottima. Sì. Vabbè. Emanuele, ma su ti chiedo che non sei più entrato. Ti ha sentato un attimo. No, si è sentato più, ok. Edoardo Mazzano mi avevo bisogno di 3:30. Per andare al lavoro, sono la sveglia. Sono un po' ceno, verso le 7:30, 8. Niente, così. Basta batteria scarica pure, c'è porre il cappaletto. Che lavoro stai facendo? Sto lavorando in un panificio, Giovanni. Autista, sono già 4 mesi. 4 mesi e 4 mesi faccio. Lo sai bene, grazie. Magari sei ben pagato pure, così. Oddio, ben pagato proprio, no, ma io va bene, era. Meglio che si rinuda. Grazie. L'importante è sia tranquillo il lavoro, qui c'è una cosa importante. E poi anche se poco... Cazzo, non conteggio visci, pacca la rocca. Vabbè, senza dubbio. Mi devo sentare in usare, sentiamo che è importante se è possibile, ok? Via Giovanni, ciao. Mari se passo dopo 23 se ci siete, eh. Ciao, dopo. Ciao. Mi stavo chiamando. Ma dove ti ha accentato? Stavo sistemando un po' lì nello scappuccino. Ma caricato il telefono. Dove metto la sveglia per domani mattina? Che alle 3:30 suona. E se riprende tutto, le freghe ormai sono finite. Oiaia. Bello garzino. Vabbè. Te sei andato a lavorare, eh? Allora... Aspetta un attimino, ma allora... Mica c'è una saturazione... Ma era agganciato, ero cazzo, porca tombo, l'ho dimenticato... Più stava andando, più andava in saturazione... Cosa? Più andava in saturazione... Cosa hai detto, Manuel? Ho detto più andava in saturazione. Perché gli ho dato troppo ingresso. Vediamo un po', adesso faccio una prova. Mi sono dimenticato che era agganciato. Fanculo. Guarda un po', Manuel, se sono saturo. Un pochettino, però già si capisce. Guarda adesso, sono saturo ancora. No, adesso va bene. Mi sa giù per badula lineare, lo sai. No, se cambia, da 9:20, vabbè, io ho l'antenna, sono sempre virati, da 9:20 va a 9:30. Adesso quanto sono, scusa, guarda. 9:20. Adesso? 9:30, se da 10 di bitti da riguardare. Ma poi comprendi, ora fa solo lo sgancio, aspetta. E mi uso le, i fatti della radio. Certo. Detto che mi uso i fatti della radio. Cazzo di mato di bassi. E io voi avete fatto il vero, io non l'ho fatto, cazzo Natale, Capodanno. Quindi domani ma poi di riposo, dopo di 3 chili. Domani riposi? Domani sono di riposo. È visto, vabbè, era. Domani devo andare a fare un modello di sé, ne approfitto. E papà, l'assicurazione l'hai fatta? Via, già fa, 5,92. E vabbè, da quello che ti ho mandato io. E da Mauro, sei due fratelli. Se poi sono in gamba, sono tu, che a me tocca a marzo. E da loro sono, no, cioè, della l'agenzia, ma che me la metto, sai, AXA. Ah, AXA, sì. Ma gli hai detto che ti ho mandato io, sì. No, non l'ho detto nulla, magari che cazzo... No, non gli ho chiesto niente, gli ho detto devo fare l'assicurazione, un preventivo, ho fatto il preventivo con Mauro. E gli ho detto, chi è lì? No, è mio fratello. Perché gli ho mandato la coppia del libretto della macchina su WhatsApp. E adesso ho guardato. Sì, 5,92. Non so se è aumentata, secondo me è aumentata. Sembra strano, che abbia pagato così. E beh, c'è l'acqua, te l'ho chiesto. E che da 72 l'avevo pagato? Praticamente 100 euro tiro in più, minchia. 100 euro, cazzo, me ne pongo in benzina io. No, di lassi. Cazzo, e vediamo al prossimo anno se... ammazzi al prezzo, se no mi danno da una cruco. E pagato 5,90 lo stesso, la tua è 1,200 però. Sì, vabbè, io, vabbè, Manuè, a me mi hanno mandato tramite un amico e mi ha fatto fare lo sconto, capito? Andava, e vabbè, dai, va bene anche così, dai, 110 euro in mano ho pagato. Se tu, cazzo, dici vieni, andavo a nome mio, ti avrebbe fatto male qualche cosa, qualche sconto, un po' di sconto, anche 20 euro. Vabbè, la prossima volta. La prossima volta, cazzo. Ma sei sicurato? Dio mio, te l'ho detto, vai a nome mio, cazzo, se non tu sì, scusa. Sono andato, se tu mi dicevi lui va a nome mio, magari mi avrebbe fatto lo sconto per dire. Io sono andato a nome di questo mio amico, mi ha fatto lo sconto. Ma sconto però. Ma hai trovato quasi 900 euro, 800, 900 quasi. Vedi un po', me ne ha fatto sconto. Vabbè, adesso... vediamo, adesso per tutto l'anno è a posto. Non so di andare a dire, è importante che l'ho pagato di meno rispetto all'anno scorso. Cazzo è un cane, che sa cane, cazzo non ha voluto abbassare di desiduro. E dov'è l'assicurazione? Lì al corso dove c'è... dove c'è lo stadio di Pini, ma lo stadio di Pini. Ehi, dove c'è lo stadio dei Pini? Dove c'è il palchicco? Sì, ma tutti mangi a mezza, insomma. E infatti già andrà su Ugata. Cazzo, la prima che avevo fatto ancora pagavo il bar di 7,74, 800, una cosa del genere, la prima volta. Perché in che classe sei? La classe, la ultima. È fatto sinistri, no? No, sinistri mai fatto. Ma ce l'hai anni cazzo l'assicurazione, ce l'hai anni la macchina, quanti buona sei l'ultima classe? 20 anni. Cazzo, tu avevi l'appunto, adesso c'è questa qua, c'è anche la moto assicurata, sembra così ma conta molto quello. Sì, ma è assicurata, ma non è a nome mio, capito, non l'ho fatta a nome mio. Ah, ecco, Manuè, sotto la fare anch'io, prova di fatta. Sai che non c'è nessuno a casa, sennò avrei preso la classe di merito. Anche tu l'avresti presa. Non era nessuno. E niente, allora, niente classe di merito. E vabbè, piano piano, con gli anni. Speriamo che mi duri questa macchina. Mi sono fatto cambio olio, filtro. Da mio fratello, me l'ha fatto lui. Ho speso... appena solo il coso, 70 euro. sopra i puriani di più. Capito? Vabbè. Oh, ragazzi. Prima volta sono a posto. 10.000 km, buone buone, forse anche prima, da 8.000. Però in cambio. Comunque sta andando meglio, dai. È più meno legata, più sciolta come macchina, dai. E poi ho notato, cambiando di circuito mi sta consumando di meno. Beh, già lo credo di consumare di meno, perché il motore gira bene, non rimane affogato, perché c'è il filtro sporco, sforza e non gira bene. E la cinghia fatta lì, dai. Che ne aveva fatta la tipa, 165.000. Ne ho 182.000. Ricordati che la devi fare a 80.000 sempre, ogni 80.000. Sì, fai anche 100.000. Sì, ma parlo sicuro, farà sempre qualche cosa prima, no? Non la città a 100.000. Non lo so quanto ci vuole, quanto mi prende Giuseppe, buh. Non lo so quanto ci vuole per fare una catena, la mia ha la catena. Mi ricordo mai se c'è la catena oppure al bagno d'olio. La mia c'ha la catena, l'appunto c'aveva la cinghia. Io adesso la devo portare, quando prendo i soldi, faccio fare tagliando e ci incatenano in distribuzione. Vabbè Manuel, la TV bene sta rispondendo. Un bombo è lui. Davvero. Sai cos'è Manuel? Purtroppo prendendo questi LED così usati, che poi vabbè magari non hanno fatto molto lavoro, però queste TV sono girate di balle, nel senso che i LED sono molto delicati. E se ne brucia uno, cazzo, si smonta tutto il televisore, è molto di balle. Ma se vedi il mio è un casino. Mamma mia, cazzo, il mio è grande, si muota a 5 pollici. Cazzo, da solo mi verrà molto male. Mi essere in due attaccando il pannello. E vabbè, poi in tal caso, poi non c'è manco spazio qua, non è cazzo lo buono, un casino. Il tavolo è piccolo, non è grande. C'è un tavolo lungo, tipo il tuo, quello c'è in casa tua, dai, in terrazzo. Uno così ce ne vuole. E allora sì che viene bene, però bisogna essere sempre in due a staccarlo. Se no lo spacchi. E vabbè, comunque io adesso mi devo fare questo tavolo. Tagliando a parte che avevo fatto da 80.000 ho fatto. Che non li ho fatti neanche 80.000, però gliela faccio fare almeno a posto per tutto l'anno, per tutto questo inverno e tutti i figli. Devo fare questo cambio di luglio, torna, che pure non ce n'è neanche bisogno, e più che altro devo fargli la catena, perché a 200.000 la catena si fa. La mia ne ha già 180.000 e quindi gliela faccio lo stesso.